La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, la nostra ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Buon sabato a tutti, buon cinema a tutti, settimana con 9 nuove uscite, non sono poche, ma i numeri sul tavolo sono quelli che sono, perché c'è un film che sta sbaragliando totalmente gli incassi ed è il famoso, secondo alcuni famigerato, 50 sfumature di grigio, arrivato già alla soglia di 13-14 milioni di euro prima di questo weekend, quindi immaginatevi cosa sarà dopo, e questo spiega perché questa settimana ci sono tante uscite, ma magari le ambizioni di cassetta sono veramente per pochi. Diciamo che forse solo Mordecai e Noi e la Giulia possono in qualche modo entrare, ecco, sopra il quinto posto nella top ten degli incassi. Per il resto anche molta qualità, ed è con la qualità che vogliamo cominciare con la nostra trasmissione, con la qualità di un film che si intitola Il segreto del suo volto. Ascoltiamo la clip. Non posso andare in Palestina, io non sono ebrea. Certo che lo sei, che tu lo voglia o no, ed è per questo che volevano ucciderti. Sto cercando Johnny. Lavora qui. Dove sono le ragazze? Assomiglia a una persona. A chi? A mia moglie. Forse è ancora viva. È morta. La clip dal film di Christian Petzold con Nina Hoss, protagonista, Berlino 1945, una sopravvissuta ai campi di sterminio, torna nella sua città natale e da quel momento in poi la sua vita sostanzialmente viene sconvolta nell'identità, negli affetti, della sua esistenza. Il tema del cambio di identità, del cambio di volto, è un tema che nel cinema chiaramente abbiamo già visto, non solo in Face Off ma anche nella Donna che visse due volte, tanto per citare alcuni film. Di questo film, Il segreto del suo volto, e del suo regista Christian Petzold, vogliamo parlare con un ospite che è al telefono con noi, Claudio Bartolini, che oltre a essere un valente critico cinematografico di film TV è anche editore di libri di cinema con la sua Bietti Edizioni. Ciao Claudio, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ciao Franco, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori del tuo bellissimo programma. Troppo buono. Allora, vale di più il film o il regista? Nel senso, questo film che ci riporta a un momento della storia rivisitato ampiamente dal cinema, ma lo fa con un taglio quasi noir, ha più forza nella regia o ha più forza nella storia, secondo te? Dunque, innanzitutto faccio una piccola premessa su Christian Petzold, che è uno dei nomi insomma più interessanti del panorama contemporaneo del cinema tedesco. Noi lo avevamo già visto nelle sale italiane con La scelta di Barbara, e questo non è il suo secondo film, ma viene al termine di un percorso che per il momento è sorprendente e non sempre purtroppo distribuito in Italia. Per rispondere subito alla tua domanda ti dico sicuramente entrambi, nel senso che il modo in cui Petzold affronta la sua storia intima, privata, la storia di questa Nelly che ha perso tutto, ha perso l'identità, si deve riappropriare della memoria e soprattutto della propria esistenza, della propria essenza, nella sua storia, insomma, Petzold riesce a riflettere la storia universale, quindi una storia privata che è lo specchio di quella universale e il corpo della protagonista che diventa un po' il corpo della storia. Dunque il suo annientamento è paradigma di un annientamento di ben altre e ben più vaste proporzioni, e il suo tentativo di riappropriazione è un tentativo che tuttora è in atto. Ecco, un film che a livello di stagionalità, come dire, forse si sarebbe collocato meglio per quanto riguarda l'uscita o prima, intorno al giorno della memoria, diciamo, magari al 27 gennaio o dopo, magari verso la liberazione, che quest'anno per quanto riguarda l'Italia, ricordiamolo, compie i suoi 70 anni. Non può essere questo un momento, come dire, non facile, non è mai facile per questi film trovare un pubblico, ma non può essere ancora più difficile in questo momento essendo slegati da eventi storici così importanti? Ma sicuramente sì, sicuramente è stato collocato un po' male dalla distribuzione e rischia l'oblio, su questo non c'è alcun dubbio, anche perché è un film che lavora sul valore della memoria, della dimenticanza, quei valori che vengono giustamente ricordati in particolari occasioni, che dovrebbero ovviamente essere ricordati sempre, però sappiamo tutti, insomma, francamente parlando, che non è così. E dunque il lavoro che fa poi sulla memoria è un lavoro che slitta da un piano estetico, quindi la memoria come riconoscimento, che viene mancato più volte, persino dal marito della protagonista, che non riconosce la moglie tornata dal lager, alla messa in scena. Una messa in scena che, ad esempio, relega l'esperienza del campo di concentramento a un flashback in sogno, dunque capiamo subito come il flashback onirico smentisce il ricordo, piuttosto afferma la rimozione, cioè è l'inconscio che ricorda il lager e non è la dimensione conscia. In veglia la protagonista non ricorderà mai il lager, certo, dunque questo non può essere altro che un elemento, una cartina di tornasole di tutta l'operazione. Poi Petzold afferma, insomma, il proprio rigore geometrico essenziale, stilistico, più volte, con questi oggetti residuali inquadrati spesso in camera fissa come per attestare l'importanza del feticcio dell'oggetto a cui aggrapparsi per recuperare questi brandelli di memoria, un rigore fotografico in interni assolutamente eccellente, una colonna sonora sempre giocata in sottrazione di toni, personaggi che si disperdono su questi viali della dimenticanza e una serie di epifanie sempre emotive, sempre implose, sempre elise. Lavora molto di ellissi Petzold, ci fa capire come il cinema non debba sempre per forza mostrare per mostrare. Certo, assolutamente, questa è una delle basi forse anche del cinema contemporaneo. Ricordiamo comunque che il film è distribuito in 50 sale cinematografiche, che non è una cattiva distribuzione per un film di questo tipo in tutta Italia, quindi nelle città più importanti sicuramente lo troverete e lo potrete andare a vedere. Grazie a Claudio Bartolini, ricordo ancora Film TV, ma anche Bietti Edizioni, libri di cinema di grande qualità. Alla prossima, Claudio. Grazie a te, Franco, alla prossima. E allora andiamo a sentire le ultime dalle strade e poi torniamo insieme, perché a proposito di film dove la regia è molto importante, vi presenteremo il Leone d'Oro dell'ultimo Festival di Venezia, che ha un titolo piuttosto lungo: Un piccione seduto sul ramo riflette sull'esistenza. La rosa purpurea. Eccoci ancora alla Rosa Purpurea. Come promesso, siamo a raccontarvi un'altra uscita di grande qualità di questa settimana. Leone d'Oro al Festival di Venezia, un film che sicuramente ha diviso e non poteva che fare altro, sia a Venezia sia dopo. C'è chi lo ha amato visceralmente, c'è chi lo ha trovato insopportabile. Sta a voi poi dare il vostro giudizio. Stiamo parlando di Un piccione seduto sul ramo riflette sull'esistenza. Questo è il titolo completo, un po' vermülleriano, se vogliamo, del film di Roy Anderson, che ha vinto il Festival di Venezia nello scorso mese di settembre. Un film che mette insieme atmosfere che potremmo ricondurre un po' ad Aki Kaurismäki, con la sua ironia nordica glaciale e anche macchiata di malinconia, e un po' forse anche i Monty Python, se vogliamo, in un certo senso, ma con una regia totalmente personale di questo anziano regista svedese Roy Anderson, che ha trovato la sua consacrazione. Comunque la mettiate, anticipo un po' un giudizio, il piccione, come ormai è stato ribattezzato questo film per fare alla svelta, è un'esperienza visiva assolutamente indimenticabile. Noi ascoltiamo questa clip e ne parliamo con Boris Sollazzo. Aveva un sasso nella scarpa. Aveva un sasso nella scarpa. Sì, l'ho visto. È stato bello. Che c'è di bello in un sasso nella scarpa? È stato bello quando se l'è tolto. Scusatemi se mi permetto. Non sareste interessati a degli scherzi di carnevale? Ho dei denti da vampiro che posso darvi a metà prezzo. Ecco, comprereste degli scherzi da carnevale da uno che ve li vende così? Ed effettivamente è un po' il clima del film. Sam e Jonathan sono due venditori ambulanti di travestimenti e scherzi per carnevale, denti da vampiro, ma cose anche molto molto superate, se vogliamo, nel loro potenziale essere divertenti. Vanno in giro come una coppia di Don Chisciotte e Sancho Panza, in giro per una Svezia senza tempo, con intromissioni di cavalieri e di re, con momenti ambientati nei ristoranti o momenti ambientati in ospedale, con la morte sempre incombente a segnare di nero l'umorismo di questo film. Un film che racconta le sensazioni di questi personaggi, racconta le loro psicologie, ben lungi da voler raccontare una storia, una trama, ma con momenti, come dicevo, visivi di grande forza anche di un certo disturbo in certi momenti. Saluto Boris Sollazzo al telefono con noi. Ciao Boris. Buon pomeriggio a te, Franco. Devo dire che, siccome mi hai rubato il paragone con Don Chisciotte e Sancho Panza, direi che a me ha ricordato anche un'Armata Brancaleone ma intimista, perché ci ho ritrovato quella stessa volontà di raccontare piccoli quadri eccezionali di vita in maniera assolutamente surreale e allo stesso tempo però molto molto umana. Il film a me è piaciuto moltissimo, trovo che sia un lavoro straordinario. È vero che forse è un po' per iniziati, nel senso che serve essere educati al cinema di questo vecchio regista, che secondo me è stato premiato sia per il film, che è un film di assoluto valore, ma anche per una carriera straordinaria. Il racconto di queste vite così strane, così estraniate soprattutto, avviene in un clima particolarissimo, dall'ottica proprio di un piccione, se vogliamo, e anche in questo senso è un'esperienza visiva pazzesca, perché si prende un rischio enorme il regista e lo porta avanti con una coerenza che può risultare anche faticosa a chi sta davanti allo schermo, ma a mio parere, se si riesce a resistere all'imperturbabilità di questi personaggi, al loro modo impassibile di assistere alla vita e di parteciparvi, alla fine poi se ne esce arricchiti, ci si trova una potenza cinematografica e anche narrativa che è rarissima in un cinema che rifiuta determinati ritmi e determinate visioni della vita, e questa forse è la cosa più bella. Ovvio che appunto bisogna essere un po' abituati a quell'ironia alla Kaurismäki ma ancora più compassata, e allo stesso tempo a una recitazione che prende dei tempi a cui normalmente non siamo abituati. Non è sicuramente un film da sabato sera da vedere con gli amici, però è un film da vedere comunque, perché a mio parere, comunque lo vogliate prendere, sarà qualcosa di unico, qualcosa che non rivedrete facilmente, qualcosa che vi porterà laddove normalmente non siete abituati ad arrivare, e questo forse è il regalo più bello che può farvi il cinema, perché è difficile scoprire qualcosa di nuovo, e a mio parere Il Piccione, mi rifiuto di ripetere il titolo per intero, è qualcosa di assolutamente nuovo, innovativo e allo stesso tempo però anche antico, arcaico, ed è per questo che lo trovo eccezionale. Che succede? Perché è triste? Niente, è solo un rompipalle piagnucolone. Gli posso offrire una birra? No, non può bere perché stiamo andando ad un appuntamento con dei clienti. Uh-huh. Di cosa vi occupate? Siamo nell'intrattenimento. Uh-huh. Vendiamo scherzi di carnevale. Vogliamo aiutare la gente a divertirsi. Che tipo di cose avete? Dunque, denti da vampiro. Denti da vampiro? Questi sono sempre molto popolari. E allora un'altra clip dal Il piccione seduto sul ramo riflette sull'esistenza, che è in 67 sale cinematografiche, quindi come abbiamo detto anche prima per Il segreto del suo volto, una distribuzione comunque che permette almeno a chi abita vicino o nelle grandi città di andarlo a vedere, esperienza cinematografica assolutamente garantita. È arrivato anche il momento di un'altra garanzia di questa trasmissione, il nostro DVD game con due tracce di un film misterioso che dovete provare a indovinare. Cominciamo da qui. Wow! Accidenti, sembrano finte! Sì. Guarda! Ti faccio vedere io. Guarda questa. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo, il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it. Provate a indovinare. I primi due ascoltatori riceveranno poi il Blu-ray di questo film. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Parliamo di horror adesso, perché nella... cambiamo totalmente genere se vogliamo, ma anche come dire, contesto umorale rispetto al film, perché nei 9 film che arrivano in sala in questo fine settimana ci sono 2 film assolutamente ascrivibili alla categoria e al genere horror. Uno si intitola La piramide e l'altro si intitola Il settimo figlio. La piramide, già nel titolo, come dire, racconta di un team di archeologi che cerca di svelare i segreti di una antica piramide egizia. Sotto lì però c'è qualcuno che non è d'accordo, qualcuno, qualcosa, un'entità, insomma, essere intrappolati in una piramide con una entità maligna che ti morde le caviglie non è bellissimo. L'altro è Il settimo figlio, qui siamo in zona vampiri invece, chiaramente sono tutti archetipi dell'horror, in zona vampiri, dove una guerra tra forze sovrannaturali e uomini sta per scatenarsi e l'unico a poterla fermare è Tom Ward, settimo figlio di un settimo figlio. Lui potrà salvare l'umanità. Il film, manco a dirlo, si intitola Il settimo figlio e noi ascoltiamo la clip. Il bastone di Sorbo, intagliato dal primo cavaliere dei falchi, il miglior bastone da combattimento. Impara a usarlo e saprai usare qualunque arma. Fa vedere chi sei, coraggio! Ho pagato parecchio per averti. Tuo padre deve avermi ingannato sul tuo valore. Boris, abbiamo ascoltato la clip del settimo figlio. Interessante anche perché alla regia c'è Sergei Bodrov, che è un regista, insomma, russo di una certa importanza e caratura internazionale. Nel cast Jeff Bridges e Julianne Moore tra gli altri. Insomma, tutto sommato pare che l'horror questa settimana, oltre alla solita, come dire, capacità di spaventare, abbia messo dentro anche un po' di qualità. C'è una tendenza molto interessante ultimamente, che è quella di usare in film di genere che normalmente non hanno grandi cast e grandi nomi alla regia, invece di spendere, insomma, della qualità anche sul cast tecnico e artistico. E questa forse è la cosa più interessante, perché si cerca sempre più di arrivare a un'autorialità molto forte in un genere che prima non la cercava. E probabilmente è anche giusto, perché spesso la realtà, anche se qui è difficile parlare di realtà, ha bisogno di un filtro che è quello dell'horror, che ci hanno insegnato anche grandi come Carpenter e molti altri, che prima forse non trovavamo. Sicuramente questo tipo di approccio risulta interessante. Il successo del settimo figlio, almeno per quanto riguarda la critica, lo dimostra, e io francamente lo spero che questa tendenza continui a perpetrarsi, perché anche in questo senso, come dicevamo prima, l'innovazione va cercata spesso andando a pescare nel passato o nelle esperienze già fatte. In questo caso un grande cast e una grande regia può essere garanzia di un'evoluzione del genere e del cinema in generale. Quindi, insomma, faccio assolutamente il tifo perché questo vada avanti e si perpetri. La rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, siamo arrivati alla terza parte del nostro programma, al momento di introdurre un paio di film, come dicevamo, che hanno nel cast e nel genere, insomma, le loro potenzialità di raggiungere un pubblico più ampio. Stiamo parlando innanzitutto di Mordecai. Mordecai è un film diretto da David Koepp, con nel cast, nei ruoli di protagonista assoluto, Johnny Depp, poi Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow assolutamente coprotagonisti, e anche qualche cameo qua e là come quelli di Paul Bettany e di Jeff Goldblum, piuttosto divertenti. Il film, la storia, una sorta di mercante d'arte truffaldino che per tutta la vita è riuscito ad avere bellissime donne e a sguazzare nel bel mondo grazie alle sue compravendite, a volte un po' losche, di dipinti. Ma c'è, come nei migliori Cluedo, diciamo così, c'è un omicidio, c'è un dipinto rubato, e da lì si parte per salvarsi, da un certo punto di vista, quello di Mordecai, Johnny Depp, e dall'altra per scoprire chi ha perpetrato questo malefatto. Ascoltiamo la clip. 3 mesi fa un museo spagnolo ha mandato a ripulire un dipinto di Goya. Il dipinto è sparito. È stato un uomo spietato che vuole finanziare una violenta rivoluzione mondiale. Sono a rischio numerose vite. E vuoi che sia io a ritrovarlo? Precisamente. Cosa c'è per me, come si dice? Fallo per la regina e il paese. No! Va bene, regina e paese, vite e alloggio, spese generali ragionevoli. Intesi. Eh sì, si fa abbastanza presto, come dire, a mettersi d'accordo con Mordecai. Basta sganciare i soldi. C'è una cosa che non devi mai chiedere a Mordecai, cioè quella di tagliarsi i baffoni che sono il vero simbolo anche di comunicazione di questo film. Johnny Depp ha questi baffi a manubrio, che non vuole saperne di togliersi, anche sotto le richieste pressanti e sensuali di una bellissima Gwyneth Paltrow. Non ce n'è. Perché? Perché sono i baffi di famiglia, li avevano gli avi, quindi bisogna assolutamente averli. Un personaggio, Boris, molto interessante, una scelta anche di carriera, devo dire, di Johnny Depp, divertente, cioè quella di spostarsi sul registro, quello brillante grottesco, chiamiamolo così, che non è facile da gestire e che secondo me alla fine, tutto sommato, questo film riesce a tenere. Dopo un inizio che fa temere il peggio, il film si raddrizza abbastanza, e devo dire che l'alchimia tra Johnny Depp e una Gwyneth Paltrow, non solo bella ma molto molto brava, funziona, con Ewan McGregor a fare da terzo incomodo stupidotto. Insomma, un film che tutto sommato riesce a parlare a due tipologie di pubblico, quella, diciamo, appunto, da sabato sera, da grandi star hollywoodiane, ma anche quella che cerca un cinema un pochino più raffinato. La battutaccia che verrebbe da dire è che si raddrizza il film, ma purtroppo i baffi no. Detto questo, quei baffi incredibili, quei baffi che sono lo strumento comunicativo più efficace del film, e che sono diventati addirittura gadget, sono un'ottima metafora anche per la recensione. All'inizio fai fatica a sopportarli, ti irritano un po', e poi non potresti più farne a meno. Lo stesso vale per Mordecai, che inizia, sembra portarti su una strada che non ti piace poi così tanto, e alla fine entri nel film, invece ti affezioni e ti dispiace che possa finire. La forza di Koepp e di Mordecai in generale è che mette molto a loro agio gli attori, in particolare Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow e Johnny Depp, che si ritrovano in quei ruoli che insomma li hanno messi più comodi e li hanno resi più graditi al pubblico negli ultimi anni. Da Johnny Depp, che sembra un po' uno sparro o un tonto vestito bene e più raffinato, a Gwyneth Paltrow, che fa la donna discreta accanto all'eroe ma allo stesso tempo fondamentale, a Ewan McGregor, che nelle parti di comprimario ha dato il meglio, anche non troppo sveglio, comunque meno di successo del protagonista, che ultimamente tanto gli ha portato fortuna. E il resto lo fa una scrittura molto raffinata, molto gustosa, molto old style, che sa mantenere dei ritmi non forsennati ma neanche compassati, e che unisce una popolarità nel testo della commedia ha una raffinatezza visiva e narrativa che non è assolutamente scontata. Volendo trovare un difetto al film è forse la parte americana, pur essendoci Olivia Munn e Jeff Goldblum che sanno impreziosirla, è meno efficace di quella precedente. Ma Mordecai rimane un esempio di commedia vecchio stampo che non vediamo molto spesso e non vediamo fatta così bene. In più siamo anche contenti per Johnny Depp, perché esce finalmente dalla fase The Tourist, che era stata forse la fase peggiore della sua cinematografia, quella in cui cigioneggiava a vuoto, e qua cigioneggia come ha sempre fatto, ma lo fa alla grande, e credo che Mordecai diventerà una piccola icona di culto, di nicchia, ma che ricorderemo a lungo, e quindi assolutamente un film da promuovere. E allora, benissimo, promuoviamolo quindi questo Mordecai, uno dei film della settimana, con appunto Johnny Depp e Gwyneth Paltrow protagonisti. A questo punto andiamo a giocare, giochiamo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. E adesso pulisci! Abbiamo un nuovo studente tra noi oggi. Benvenuto in questo schifo. Hai bevuto per caso? Sì, un po'. Ok. Uno dei casi cinematografici di quest'anno per quanto concerne appunto il film in questione, il film che vi abbiamo presentato e di cui dovrete darci il titolo con il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che risolveremo la prossima settimana. Comunque mi sono informato su Claudio, a parte il fatto che guida come mia nonna. Altro che cessione attività, questo ha cappottato l'alimentare di famiglia dal 1910, fallito, il nonno si starà rigirando la tomba. Oh, e dai un po'! Va piano. Però mi sembra tanto un bravo Cristo, ma sei sicuro? Sicuro? Un amico di mio cugino mi ha detto che quello c'ha una denuncia per rissa, una per truffa, un protesto e due querele. Vabbè, ma magari sono cose vecchie. Ma poi dai, l'hai visto come si è presentato dal notaio? Con i contanti incartati nei fogli del giornale che manca uno spacciatore. E allora, abbiamo sentito una clip tratta da Noi e la Giulia di Edoardo Leo con Luca Argentero, Edoardo Leo, Claudio Amendola, Anna Foglietta, un grande cast per una commedia italiana che viene fuori diciamo da una factory ormai molto, molto affermata, molto coesa, come quella appunto che aveva messo insieme Smetto quando voglio, uno dei casi di un paio di stagioni fa per quanto riguarda il cinema italiano, ma anche la mossa del pinguino. Noi e la Giulia del titolo è quella che negli anni 70 faceva sognare molti italiani, quella macchina bellissima dell'Alfa Romeo, che in questo caso è un po' il veicolo appunto su quale si muovono le storie di questo film. Boris, raccontaci un po' la trama, la storia di questo film appunto, e un po' come, da che parte è andata la banda che ha prodotto questo film, che poi Edoardo Leo in testa, come dicevo, quella che già nelle ultime stagioni ha convinto molto spesso anche al botteghino il pubblico italiano con le sue pellicole. Ecco, io credo che su Edoardo Leo bisogna fare un discorso complessivo. Questo è sicuramente un ottimo film, sicuramente il film che mi verrebbe da consigliare come vedere per primo questa settimana, ma c'è da dire che questo attore, poi diventato regista lentamente ma molto efficacemente, qualcosa e qualcuno da cui non potremo prescindere in futuro per ricordare questi tempi. Ha saputo essere ed è un poeta popolare di questi tempi precari, di questi tempi indefiniti, di una generazione fantasma che poi è la sua, che anche storicamente dovremo affrontare in futuro per ricordare questi anni, e credo che questo sia una cosa molto importante per chi magari voleva solo fare delle commedie efficaci. Invece sa raccontare un'umanità molto particolare, post-ideologica, che non era assolutamente scontata da identificare e che infatti nessuno forse come lui è riuscito a raccontare, anche quando ha solo fatto l'attore, come nel caso di Smetto quando voglio, che è diretto da Sidney Sibilia. Noi e la Giulia viene alla fortuna di venire da un libro di Fabio Bartolomei molto bello, Giulia 1300, e si sente, nel senso che Leo qui si risparmia magari qualche ritmo più commerciale, più sostenuto, qualche battuta al vetriolo in più, per un racconto più corale, un racconto anche più immaginifico, cioè uno sforzo di regia, di movimenti di macchina che in passato non avevamo visto. E il resto è una storia particolare, perché particolare ma anche molto, molto nota, che abbiamo sentito più di una volta. Cioè, ci sono dei quarantenni insoddisfatti della loro vita, insoddisfatti dei loro lavori precari, dei loro lavori insicuri o semplicemente demotivanti, che decidono di aprire un agriturismo. Dicono, scherzando, che l'agriturismo è il ciringhito dei quarantenni, no? C'è il sogno del ciringhito quando si è giovani e poi arriva il sogno dell'agriturismo. E anche qua è molto divertente vedere questo viaggio, perché all'inizio sembra tutto possibile, tutto probabile, il sogno può diventare realtà, ma siamo pur sempre in Italia ed è difficile fare qualsiasi cosa, e quindi si ritrovano tra problemi burocratici, problemi di denaro, problemi con dei camorristi di zona, e lo affrontano nella maniera a cui ci ha abituato Edoardo Leo, non eroicamente ma estremamente umanamente, cercando di risolvere, di sciogliere un nodo per volta alla sua maniera, magari con approssimazione, magari con l'intuizione di un momento, magari anche con un po' di cialtroneria. Fa piacere vedere questo insieme d'attori, che è davvero un insieme prezioso. C'è Stefano Fresi, che a mio parere, quando ci renderemo conto che è uno dei migliori attori italiani, sarà sempre troppo tardi. C'è un Claudio Amendola, di cui dobbiamo ringraziare in ginocchio Edoardo Leo di averlo recuperato, perché anni e anni di TV ci hanno privato comunque di un grande attore al cinema, e lui con La mossa del pinguino prima e con questo film adesso ce lo riporta, e qui anzi Amendola appare anche depurato da certi vizi e vezzi televisivi. E poi c'è un'Anna Foglietta realmente incinta, che fa una svitata appunto in stato interessante, che è gustosissima e che rappresenta l'elemento di imprevedibilità, di bellezza, di anche di follia di questo film. Quindi Noi alla Giulia per me è il film migliore della settimana, ma credo che il cinema di Edoardo Leo vada visto soprattutto per ricordarci cosa siamo, no? Molto cinema si vede per ricordarci come eravamo, e invece il pregio di quello di Edoardo Leo è che ci racconta come siamo in questo momento adesso. Il bagno di sotto, che è completamente intasato, due rubinetti che gocciolano e mancano tre porte. Intonaco da rifare, mattonelle scollate, l'impianto elettrico non è a norma. La TV non funziona. Ah, è un vetro di una finestra rotto. Se no stavamo ancora fuori. Sono quattro cazzate, mio padre era idraulico. Il mio falegname. Il mio si intendeva di pittura, ma cosa vuol dire? Non è che ha un muro scrostato, gli dici guarda che mio padre se ne intende e lui si autoripara, eh? Come la fate difficile. Dai, su, cominciamo subito con le cose importanti. Il televisore? Direi il bagno intasato. La rosa purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, come sempre dedicata al cinema da vedere in casa, ma prima dobbiamo ancora assolvere un ultimo compito di cronaca, diciamo così, o di pre-cronaca, chiamiamola così, ricordando il precrimine di Artificial Intelligence, anzi di Minority Report. Oscar, abbiamo detto, nella notte fra il 22 e il 23, parlo dell'Italia, fra domenica e lunedì verranno assegnati gli Oscar, un'edizione che ha visto nelle nomination protagonisti di grande qualità, a partire da Birdman, ormai... fa un certo effetto pensarlo, ma le urne sono già chiuse e quindi il vincitore dentro quelle urne c'è già, anzi non c'è solo dentro quelle urne, ma c'è dentro anche la testa e la memoria di due responsabili della PricewaterhouseCoopers, Brad Altmans e Rick Rosas. Sono due nomi che non dicono niente a nessuno, ma questi due signori sanno già chi ha vinto l'Oscar, perché sono quelli, diciamo, i notai della situazione, quelli che hanno dovuto anche, pensate a questo meccanismo, imparare a memoria i vincitori, perché nel caso le schede vengano distrutte loro devono saperli. E quindi insomma saranno le persone, sicuramente vivranno sotto una specie di cupola di vetro antiproiettile in questa fase, per non far trapelare nulla, anche perché saranno loro a dare la famosa busta in mano ai presentatori da dietro le quinte della serata degli Oscar. Tra l'altro i bookmakers sono scatenati, tanti testa a testa per la regia tra Inyan Ritu per Birdman e Richard Linklater per Boyhood, oppure ancora per gli attori Eddie Redmayne, che fa Stephen Hawking nella Teoria del Tutto, e Michael Keaton, che appunto è il protagonista di Birdman. Fra le attrici, Julianne Moore in Still Eyes e Reese Witherspoon per Wild. È come dire, c'è sicuramente grande battaglia. Boris Sollazzo ancora in collegamento con noi, gli ho tenuto un attimo ancora il telefono acceso perché vorrei sapere un po' il tuo pronostico da una parte, ma anche il tuo cuore cosa direbbe, parlo delle categorie principali se no ci dilunghiamo troppo, cioè film e attori e regia. Ma allora, diciamo che la mia competenza, quel poco che c'è, mi direbbe Gran Budapest Hotel, che mi sembra che negli ultimi mesi abbia percorso a grandi passi, insomma, la strada lastricata di Oscar verso il teatro, in cui sentiremo appunto nella notte tra domenica e lunedì i vincitori. Il mio cuore dice altro, nel senso, il mio cuore vorrebbe vedere Birdman stravincere, vincere come miglior film, miglior regia e come miglior attore, perché Michael Keaton secondo me dimostra una potenza interpretativa che mai aveva avuto. Con questa forza mi piacerebbe che ci fosse anche Edward Norton, perché senza di lui probabilmente quel film non sarebbe così bello, mentre tra le attrici trovo che Julianne Moore in Still Alice non sia battibile. Poi va pure detto che negli Oscar c'è anche ultimamente la tendenza a bilanciare i premi, quando prima ci ritrovavamo con la messa di premio a un unico film, penso al Paziente Inglese, insomma, molto sopravvalutato e coperto di Oscar, adesso invece si cerca di dare un po' all'uno, un po' all'altro, più comunicamente, e quindi insomma non mi stupirebbe nemmeno un miglior attore come Eddie Redmayne, che in un film piuttosto mediocre però dà una prova interpretativa eccezionale. Però ecco, diciamo che il mio pronostico è per Gran Budapest Hotel. Il mio cuore però tifa Birdman in maniera sfacciata. E allora, questo è il pronostico di Boris Sollazzo. A me basta che vinca qualche cosa Whiplash, perché è un film che amo davvero la follia, e pare che J.K. Simmons, il non protagonista, maestro cattivissimo del film, maestro di batteria, sia davvero in testa, quasi imbattibile nella, appunto, categoria del non protagonista. Quindi vedremo nella notte fra domenica e lunedì, e settimana prossima magari facciamo un commentino, anche se arriviamo con qualche giorno di ritardo, però giusto per fare il punto. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana, buon cinema, e a questo punto buoni Oscar. Buoni Oscar a tutti, a chi vorrà stare in piedi, vederseli di notte, vederseli su internet, eccetera. Allora, noi siamo giunti alla parte appunto di cinema da vedere in casa, che comincia come sempre con la soluzione del game della scorsa settimana, quest'oggi con qualche sorpresa. Come vedete, la Chiesa, quella che chiamiamo Madre Chiesa, ha deciso che quando un bambino raggiunge l'età di 7 anni, l'età della ragione, i suoi genitori devono prepararlo alla prima comunione. Allora, questa era una clip della settimana scorsa. Il film era Piovono Pietre di Ken Loach. Qual è la sorpresa? Che per la seconda volta da quando esiste il nostro DVD game non ha indovinato nessuno. Era evidentemente un film così forse perso nel tempo, questo di Ken Loach, così difficile. Forse la clip, la nostra Silvia in redazione è stata cattivella, ha messo una clip molto molto risa. Alla fine non ha indovinato. Molti sono cimentati ma non hanno indovinato. Allora noi lo stesso vogliamo regalare questo DVD di Piovono Pietre ai primi due ascoltatori che non hanno indovinato stavolta, giusto così come premio di consolazione. Saranno Claudia Cattaneo di Fonte Nuova, provincia di Roma, e Salvatore Lofino di Trieste a ricevere Piovono Pietre, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, che è in collegamento con noi e che ne sono certo il film lo avrebbe indovinato. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo del premio della giuria a Cannes 1993, la storia di un operaio disoccupato, di sua figlia che vuole un abito della prima comunione e di uno strozzino che sequestra al nostro il libretto per il suicidio al posto del prestito appunto effettuato. Seguono ovviamente gli effetti collaterali. Ken Loach nel film è veramente della piena maturità, passa dalla descrizione del disagio dei sobborghi a una commedia corrosiva quanto leggera, che procede in maniera lucida e tagliente, indagando l'Inghilterra post-Thatcher. Devo dire, il video è di qualità audio-video discreta, con un'introduzione al film di Mario Sesti, e però anche un bel booklet con commenti critici e conversazioni con l'autore a cura di Bruno Di Marino. E allora, questo per quel che concerne il game della scorsa settimana, Piovono pietre di Ken Loach. Parliamo invece di segnalazioni dalla programmazione di palinsesti televisivi in chiaro della prossima settimana, con un capolavoro come Gilda di Kim Vidor sulla 7 di domenica 22, proprio domani alle 14. Sì, proprio di cosa parliamo quando parliamo di noir, perché parliamo veramente di uno dei film più famosi della storia del cinema, un triangolo d'amore e morte che scioglie nell'erotismo un intricatissimo contorto, veramente incredibile intrigo poliziesco, con una Rita Hayworth al primissimo ruolo drammatico che diventa da subito un'icona in ogni parte del mondo, con gesti memorabili come quando si sfila il guanto nero lunghissimo cantando Amado Mia. E Amado Mio, un paradigma veramente per il genere, un mito omaggiato lungo tutta la storia del cinema, e se dobbiamo citare un omaggio citiamo quello di David Lynch che in Mulholland Drive. E che è davvero un film che definire iconico è poco, è un film pieno di momenti iconici, pieno di immagini che sono rimaste nella storia del cinema. Gilda sulla 7 di domenica 22 alle 14, mentre sempre di notte, anzi non sempre di notte, questa volta di notte, perché le 14 non sono di notte, ma noi ormai stiamo confondendo tutto, cioè sarà il momento degli Oscar, non sarà facile, c'è Bella Mariposas di Salvatore Mereu su Rai 2 all'1:55 della notte di lunedì 23. Qui andiamo dal super affermato e super iconico a qualcosa che invece vale davvero la pena di scoprire per chi non l'avesse fatto al cinema, perché è un film davvero importante. Borghi di Cagliari, e li vediamo negli occhi di una ragazzina. È veramente un piccolo miracolo questa opera quarta di Salvatore Mereu, sardo. Lo è perché riesce a tradurre innanzitutto in materia audiovisiva pagine veramente ostiche come quelle del romanzo di Sergio Azzeni, che erano veramente uno sciallo di parole, fattarelli, impressioni, privo di una punteggiatura e con una trama molto scentrata. Ed è molto importante perché si inventa un cinema inedito che sa raccontare un'età e una visione d'Italia fuori da ogni retorica. È un realismo trasognato, alterato dal racconto confidenziale della protagonista, che ci racconta e sciorina aneddoti e commenti e marchia Cagliari con uno sguardo e parole da bimba. Mereu, con i suoi magnifici piccoli attori non professionisti, coglie veramente il linguaggio, i desideri, le fobie, la visione del mondo di chi è nato e cresciuto in quel luogo e che ha sviluppato sogni e bisogni tra le mura di quelle case e le poche centinaia di metri di quel paese. Non è assolutamente cinema civile, non c'è nessuna denuncia, ma c'è veramente l'esatto sguardo lieve e disincantato, sognante e anche segnato dall'ambiente degradato di una preadolescente qui ora in un quartiere sardo e sottoproletario. Rai 2 lo propone in prima visione ed è sicuramente qualcosa da recuperare. Ecco, sarebbe stato molto bello se Rai 2 l'avesse proposto in prima visione a un'ora più decente, ma insomma, fate andare i videoregistratori o state svegli. Bellas Mariposas è su Rai 2 appunto all'1:55 di notte di lunedì 23. Grazie Giulio, sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, la prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra corsa, sentite le note della sigla. Allora, grazie a Peter Bescapè in regia, Silvio Boccaletti in redazione. Noi ci sentiamo sabato prossimo alle 18 qui alla Rosa Purpurea su Radio 24 per la nostra Ora di Cinema. Un saluto da Franco D'Assisti.